per il mare e una volta che ci siamo, insomma, acquietati, è arrivata la sera, siamo stati attaccati dalle sirene che, come abbiamo poi appurato, hanno delle belle noci di cocco, Minne la prima zinga. cosa. No, però vorrei un pesce. Hanno dei bei pesci palla con Almeno loro. una quarta, fin lì. Almeno. Ma è medio moda? Minimo sindacale. Io insisto che per me a quel punto è media comunque, però vabbè. Comunque, la matematica non è un'opinione. Andiamo avanti. Ecco, sapevo che avresti fatto così. Da quale matematica? Vabbè, comunque, tornando un attimo. Affrontiamo le sirene quasi lasciandoci le penne, cioè Miff quasi si ammazza. Sicuramente si è rotta le costole, però gli altri, Nibel, King assoluto Chuck Norris, è riuscito a sopravvivere dopo essere stato trascinato, preso, fritto. A posto, fresco come una rosa. Invece Lieto e Adone, un po' più principessine, sono stati bene, alla fine non si sono fatti troppo male. E basta, Adone ha fritto un po' di pesce, appunto. E dopodiché, combattimento è andato bene alla fine. Abbiamo recuperato queste conchiglie magiche che usano. L'ancora che ci hanno rubato, siamo riusciti poi a riattaccarla. Grazie a Nibel, grazie alla bacchetta magica di Adone. Dopodiché, si fa l'ora di andare a Nanna. Ok, Miff e Adone hanno lo scambio in quel momento dei sogni, vero? Sì, Sì. ok. Prima appunto di andare a Nanna, Adone e Miff hanno una amichevole chiacchierata, che di amichevole non ha proprio un cazzo. Letteralmente Adone non ce l'ha più il cazzo. Quindi iniziano a chiacchierare, Adone decide, insomma, Miff lo minaccia dicendo guarda che se sei pericoloso ti faccio fuori, Adone scovato dice ah sì, come? E Miff lo addormenta. Gli fa fare un giretto per i suoi sogni. E dice: brava. Dopo si svegliano e c'è un momento molto Yuri in cui sono lì per lì per baciarsi. Incredibile. Welcome back, Madoka Magica. Dopodiché si va a Nanna. Dopo aver fatto le nanne, i 2 giorni successivi li abbiamo Fermo. passati. Fermo perché li facciamo. E ricomincio da capo. Ok. Stavo Calma, pensando calma, che non ti calma. si fermare lì! È che queste cose, cioè, mancano dei collegamenti. Ok. Ok, perfetto. Allora, siamo al giorno dopo questo combattimento. Vi siete divisi un pochino i compiti per le cose da fare sulla nave. Per esempio, Nibel, si è adoperato per pescare il primo giorno, Lieto il secondo, Nibel ha pescato nella vecchia maniera, Lieto ha pescato come facevano in altre parti del mondo, cioè tirando delle palle di fuoco in acqua, dei fulmini e poi Fulmini. delle lame per Delle recuperarli. lame. As long as it works. As long as it works. Esatto. Arrivavano pure già cotti, Ha quindi provato a che tirare una palla di fuoco e poi. è successo quello che è successo. Eh sì. Gli altri siete dati poi nei turni per fare di vedetta, per tenere un attimo la nave quando Aku doveva riposare e boh, immagino qualcuno di voi abbia fatto da mangiare, insomma, cosa del genere. Ci sono stati alcuni eventi singolari durante questi 2 giorni, ma andiamo con ordine. La sera del primo giorno, se non sbaglio, non è successo niente, vero Sara? Fermami. Cioè, la vostra cosa l'avete trovata al Era secondo? il secondo, sì, il Ok. secondo. Quindi il primo giorno siete semplicemente sotto coperta, qualcuno di voi sta preparando da mangiare, e ditemi voi se volete interagire fra di voi o se volete fare solo small chats. Se volete fare solo small chats, andiamo direttamente alla sera del secondo giorno. Io direi small chat, a meno Sì, che. sì, Anch'io. sì. Perfettamente. Bene. Il secondo giorno ve l'ho già descritto, in realtà ci sono delle pause e al pomeriggio, quasi contemporaneamente, cioè effettivamente mentre Adone stava nuotando da un lato della nave, Lieto stava pescando dall'altro lato della nave, Miff ha un incontro e Nibel ha un altro incontro. Miff va subito a parlare con Adone di questa cosa che ha trovato e poco dopo che avete fatto le vostre robe, vi accorgete che in cima alla nave c'è Nibel che sta parlando con Aku, Adone e Mif in un angolo con una botte, giusto? Era una botte? Perfetto. Sì. E c'è Lieto che riemerge dalla sua pescata. Quindi dimmi te se vuoi interagire con qualcuno, Lieto, o fregartene. Ti tengo a specificare che Adone adesso è in costume da bagno, con i capelli tutti bagnati, tutto umido. Adone, segue la, la moda o no? Segue? La no, moda. Adone, Adone no. Adone, Adone non segue la media nella moda. Sopra. Che sia mago, ha una terza. Okay. È mago di sopra. Okay, okay. Mi piace quella descrizione. No, allora Lieto è tipo. Okay. Perché non sono come tua mamma. Esatto. Sempre la ricerca delle figure materne. No, più che altro è. Da dove cazzo esce la botte? La botte. L'abbiamo fatta talmente tanto forte che si è materializzata anche questa. Ma è entrato in camera tua, Sirio? Tra l'altro. Mio fratello. Mio fratello. Okay. Fratello. Questo è uno spettro, basta da dire. Sì, sì, ho un fratello. Ce n'erano anche altre di botti, come vi confermerà il Nibel, se glielo chiedete. Sì. Hai fatto questa domanda in game, Mika? Sì. No, no, la mia domanda è tu. E cazzo, fate la botte? Cazzo, è uscita? Beh, l'abbiamo presa da sotto coperta. Per lui. Cosa state facendo? Mif immerge le mani in acqua, tipo a mo' di altare, no? Vedi l'acqua che scende e c'è questa stella marina nera. Ah. Mif si rivolge verso te e fa: presentati, questo è Irubaru. Non fa nessun suono, nessuna cosa. È una stella marina. È una stella marina nera? Sì. Ok, quindi lo spiedo lo prendo io. Si alza un tentacolo sotto a un buco che potrebbe somigliare a una bocca o a un ano, a seconda delle tue inclinazioni. Le stelle marine non hanno il solito orifizio per entrambi, tra... Esatto. Ok, infatti. Era quello il joke, Ica. Sì, al centro dei tentacoli, al centro del corpo. Sì, lì ci va lo spiedo, allora. No, perché? Si mangia, che cazzo vuoi? Avete preso il pesce? No, bravi. È una creatura bizzarra, lasciala stare. Non è di qua? Sì, e anche dobbiamo noi capire perché si è arrampicata sulla nave noi. Vabbè, intanto non sarebbe stato un grande pasto, quindi fate il cazzo che vi pare. Tiro palla di fuoco su Lieto. Non ascoltarlo, sei bellissimo, sei speciale, sei speciale. Si metti in acqua, allora la metti là. Si riapre. È oggettivo, non è che... Dio, quello che volete, non diventa più grande. E questo è quello che dice a letto? Va bene, dai, vediamolo. Mi avvicino e faccio tipo la stella marina, la fede diventa più grande. Si ritira, diventa più grande. Va vedi, esatto. Il barile. Non funziona. Basta. Non sai sentire come tratti le donne. Cos'è che ha detto? Non ho sentito. Così è come tratti le donne per il. Mi fa ridere, cioè, poi smette di ridere perché le fanno male le costole, quindi sentite... Ah, pensavo perché l'avesse fatta Adone. Ah. No. Tu invece hai avuto fortuna a pescare? Abbastanza, I guess, tipo... Ha dei pesci già pronti. Sì, esatto, pronti. Ah, ottimo. Alcuni sono tagliati... Alcuni sono cotti. Non contemporaneamente. Il logo sottissimo è vuoto. Dovete sezionare. Beh, almeno abbiamo un po' di... Avete un po' da mangiare. Basta che non fai lo stronzo e poi mangi comunque anche tu, cioè, che continui a dire che non lo vuoi, ma poi continui a mangiare. Quindi, cioè, non... Ok, cioè... Sì. Ah vabbè, in caso do una mano io a togliere le lische. No. Lieto, che la stella marina ha iniziato a piroettare su se stessa all'interno della botte e ha formato un piccolo... quello mulinello. Quando lo fai si spaventa e si dà una pallottola e finisce sul fondo della bocca. Biff ti dà uno schiaffo sulla mano, ma la smetti, scusami, poverino. Dove apre bocca e poi dice no, basta, e la richiude subito. Cos'è, ti piace che mentre mangi la gente ti ficca le dita in bocca? Cioè, non lo so, vuoi che proviamo? La faccia di niente tipo... C'è di peggio nella vita. Sto cercando di non ridere in questo momento. Tornerò a nuotare, se questo è quanto. Mi sembra che Adone sia poi ritornato a nuotare. Sì. Io mi devo sedere. Qualcuno sa se Nibel è ok? Guardo in direzione di Nibel. Nibel! Io avevo parlato con Aku e poi ho visto che erano occupati, ero sceso di nuovo giù a finire di fare le mie robe. Quindi è risceso. Non c'è più niente. Allora, Mif, cioè, qualcuno ha visto che scendeva. Mettendomi... Ah, ok, ok, no, perché era tipo... Oh? L'avete sentito, se non visto. Troppo seria sta canzone, non me la togliere. Aspetta che l'avevo mutato. Oh, mamma mia. Ho mutato Promezia. Mai mutare Promezia. Siamo proprio come nel 1800, silenziamo le donne. Esatto. Qualcosa di buono lo facevano anche all'epoca. Se vuoi andare a parlare con Nibel, puoi. Se no, andiamo alla sera. No, dai, andiamo alla sera, perché poi Adone doveva andare a nuotare. Perfetto. Cercherò di non farmi distrarre dalla presenza di tuo fratello, che è estremamente sexy. Basta dire questa cosa! Che sei super intelligente, sei un bravissimo ingegnere, stai pure studiando francese. Sessuali. L'avete sentito? No, non l'abbiamo sentito. Fatelo vedere, però, insomma, la nostra pin-up. Va bene. Io ce l'ho. Ok. Qua la telecamera, devi abbassarti un pochino. Ah, ok. È l'uomo che ride, lo vediamo solo fin qua. Non è vero. Voglio bene, Jack. Ciao. Jack. Ok. La canzone giusta per sta cagata. Arriva la sera, scende la notte. L'odore di salsedine del mare aperto è inebriante. E è ancora più intenso se considerate che intorno a voi c'è l'oscurità più completa. Siete nella fase più... terribile. Di mare aperto che vedrete in questo viaggio, perché avete abbandonato l'ultima costa limite delle isole Achaies e state per andare a Esboson. Quindi c'è un tratto in cui non si vede né la costa da cui venite né quella dove arrivate. E vi siete riuniti per cenare, avete cucinato il pesce, metà del pesce che ha preso Lieto era da buttare via perché era in condizioni critiche. A parte si salva e più massa. Cenate a fianco alla botte, quindi forse io voglio vedere. Io infatti volevo dare un'occhiata alla stella, alla botte. Allora sì, Mif è accanto alla botte, credo, sempre lì. Ci tenevo a dirvi che, anzi, Nibel, hai con te quello che hai trovato oggi o l'hai lasciato da qualche parte? No, me lo sono portato dietro, devo farglielo controllare. Ok, allora andiamo con ordine. Prima la botte. Quindi tutti voi vedete che la stella marina è in posizione rattrappita. E in cima alla botte, galleggiante, c'è una pallina nera. Semitrasparente. La prende e la mette nella saccoccia per le altre. Ne hai tre. Mi sa che una l'avevi data ad Adone, quindi ne hai due. Guardo la botte e faccio emoji Moai in faccia. Cos'è quello? Una stella marina che produce simil perle. Cioè, Biff ti porge la mano, non si alza, le fa malissimo alzarsi. Quindi ti porge semplicemente la mano col palmo aperto e questa cosina rotonda. Guardo la perla. Ok. Sembrano, Adone ipotizza che siano le escrezioni, cioè lo scarto della stella marina dopo che ha purificato l'acqua. Si mangiano? Cosa dobbiamo farci con questo? Grazie per averlo chiesto. Mi rolli un di 10, anzi rollamene due perché avendo detto si mangiano fai il tiro propizio. Ok. È su... per ricordarti una cosa, quindi è su mente puro. Puro, puro. Culo, culo. Cinese. Culo, culo, culo. Non credo aver bisogno di ritirare. Credo, se vuoi farlo per i meme puoi, se no ti dico e basta. Per i meme. Dai ancora, andiamo più ancora, ancora, vai, vai. No, non ce l'ha un altro. Hai un ricordo no. Nitidissimo. Ok. Di aver già visto una pallina nera simile. E okay, lo colleghi col fatto che hai detto mangiare, perché dici, da dove viene il mangiare? Ah, ok. Dalle macchine. Ed è più piccola, ma è identica a quella cosa là. Se la ricordi non sto a raccontartela. Sì, sì, no, mi ricordo. Perfetto. Ok. Voi vedete che Nibel sta avendo un moment of being... alla Wolf. Cioè io mi metto a guardarla, mi metto a guardare e mi faccio due passi attorno alla nave. Vuoi condividere qualcosa con noi, Nibel? Ho già visto una roba simile, però non prodotta da un animale. Prodotta da una macchina? Sì, da una di quelle macchine per fare il cibo. Quindi è commestibile? No, non credo fosse normale la produzione di una roba del genere. Era stato ad Elfo quello che stiamo andando a cercare. Quando siamo andati alla... come cazzo si chiama? A fare il contratto per la mia fattoria. C'era una di queste macchine qua, siamo andati a fare una pausa, ci ha aggeggiato un attimo ed è uscita fuori una roba del genere. E poi è andato in bagno e ci è rimasto lì per mezz'ora. L'ha mangiato ed è andato in bagno? No, non l'ha mangiata, se l'ha tenuta per sé e tra l'altro c'era poco dopo ho incontrato la Muklos e... quando gli ho detto quello che è successo mi è sembrata particolarmente stranita. Jack. Tanto che poi hanno parlato in privato qualche giorno dopo e dopo è andato a lavorare per lei. Però rimane il fatto che è strano che una roba del genere, sicuramente ora che l'ho vista riesco a fare 2 più 2, viene da pensare che sia produzione magica anche quella della stella. Non è... A proposito, Lieto, si gira verso Lieto e fa, io e Dadone abbiamo provato a fare una cosa del genere, come ha detto Nibel, però non è una stregoneria, non è magia naturale, non è teurgia, e magari è ontica. E tipo roll di 10 su arcano. Non è magia ontica. Vediamo quanto fa. E sia ontica che naturale posso fare. Cioè ontica naturale. Naturale hanno già appurato che non lo è. Ha già appurato che non è. E c'è anche. Vabbè. Teurgia? Ho già fatto. Teurgia già fatta e non è. È stato un roll per questa cosa. Sì, abbiamo fatto naturale, teurgia e stregoneria. Ah, ok. No, teurgia non era nessuno. Perché forse non avevo abbastanza competenza. Anche io mi ricordavo. Come è possibile? Ce l'ho io la competenza in teurgia. Ce l'ho la competenza in teurgia. Vabbè, in caso ci possiamo mettere in questo momento per teurgia. Sì, come volete. Ottimo, e allora Mif magari ti aiuta. Prima vabbè, tanto combo per... Cioè... Mif ti aiuta, beh, in un altro. Grazie. Molto bene. Totale di arcano quanto hai? Di arcano c'ho 7. 15. Ci sono un paio di modi per capire se una roba è una magia ontica. Tendenzialmente è che non sono eterne le magie ontiche. Questa schifezza è eterna, cioè se qualcuno non la consuma, non la distrugge, non si cancellerà prima o poi. E però tu non sei un esperto solo di magia ontica. Non è una teologia, vi preannuncio, quindi era inutile fare il roll di teologia. Ma quello di cui è esperto Lieto sono le cosiddette arti anomale. Non perché sia lui un esperto, ma perché sua madre ha un cazzo di negozio di roba del genere. E ti ricorda alcuni artefatti cioè, che erano proprietà di Pronoe e che contrabbandava realisticamente in maniera molto poco legale. Definirli artefatti diabolici non è propriamente corretto. Credo che tu abbia visto anche la magia diabolica ed è leggermente diversa. Questa è proprio una forma di magia del patto che tendenzialmente richiede qualche forma di sacrificio o cose del genere. E cazzo c'entra in una stella marina? Non male. Avete preso un demone, complimenti. Adone? Sì. Ho una domanda. Volevo fare una cosa. Quindi... Vabbè. E... Lieto tipo si infila la mano nella giacca, tira fuori tipo il coltello, si taglia tipo la mano sul palmo e col sangue bagna tipo la pallina. Interessante. Chiede qualcosa? Adone dice... Guarda, stavo per prendere il pesce, ma sono più interessato alla tua proposta. Fai che te lo condisco e ti allunga tipo il sangue, che gocciola. No, da dare alla stella. Abbiamo cannibalismo a casa. Ok. Non sono ancora arrivato a quel livello, dice Adone. Per un istante, quando il sangue tocca la palla, vedi un sigillo tracciato... come se fosse le stelle di Dragon Ball nelle sfere del drago. Oui. Da qualunque direzione le guardi sono sempre nella tua direzione. Il sigillo in sé probabilmente è un sigillo diabolico, non vi è particolarmente familiare, a parte al fottutissimo Lieto che l'ha già visto. Credo. No, a parte al fottutissimo Adone che l'ha già visto. Ah, ecco, infatti dicevo... Scusami. Ma non ti dico cos'è, ti dico solo che l'hai già visto. No. No, adesso io... Ti è familiare. Amo, io li posso elencare, quelli non che ho visto. Non è nessuno di quelli che riusciresti ad elencarmi. Aspetta. Sì. Io Sirio non l'ho visto, e Adone però se lo ricorda, o in che situazione siamo? Lo hai visto anche tu, ma non è una roba... Non l'hai visto su un libro. Non è il sigillo della della centrale, no, vero? Non è il sigillo della centrale. Ok. Can we have a description of the symbol? Lo avrete a brevissimo. Ok. Voglio okay. confermare... Beh, vediamo cosa succede, poi nel caso faccio ulteriori domande. La sfera assorbe il sangue come se fosse una membrana che fa osmosi con okay. le cose, quindi diventa un pochino più gonfia. Però pressoché identica a prima. Interessante. Probabilmente ne serve molto di più. Tipo, lascia la sfera in mano a Mif. Divertiti. Letteralmente che ha una ferita aperta in questi giorni. Volendo può fare questo tributo. Magari. Dietro parte 2 tempio di Arba. Allora. Il sangue ce l'ha messo Adone in realtà, se non mi ricordo male. No, eri tu. No, il sangue non ce l'ho. La prima volta sì, ma poi. L'ho concluso io effettivamente. Sì, con cosa che ti curava. Vi arrabbierete sì, tantissimo. Sì. Ma il simbolo ricorda vagamente una lisca di pesce. Perché ci dovrebbe? Perché vi aspettavate una cosa figa, invece è una stronzata. le tue cose sono sempre sia fighe che una stronzata. È un po' difficile da descrivere. Io farei ogni tanto le barrette quelle in verticale. Tra quello letteralmente è quello. Ripetute. Ah, dice, ma diventava troppo lunga, non volevo. Adone comunque dice, il sigillo mi è familiare. Prova a farmelo vedere da vicino. Devi ridargli il sangue per vederlo da vicino. Prendo il tipo... No, Adone io non è... La ferita è ancora aperta, cioè non è che tipo tieni. Allora scusami, se è ancora aperta, Adone, se ci posso un po'... Tieni, sì, vai, cioè, allungo la mano. Allora, la mano. Aspetto su... che coli. Che cazzo la metto? Che sì, la metto adesso, la perdiamo. Telegram, sul gruppo Telegram. Vabbè. Ma l'ho già visto. Sì, che l'abbiamo già visto, ma l'abbiamo visto in due. Ma infatti no. Quindi, vabbè, ho detto, sono sicuro di Adone. Ok. Quando lo rivedo, posso provare a fare un tiro per ricordarmi specificatamente. Aspetta che guardo il mio modo. Dove andiamo a parare con sta cosa, se fai alto. Di 10, vero? Sì. Quanto è? C'ho 1. C'ho 4. No. Dai. Ma Dio. Hai qualche... Posso usare il rewind? Puoi usare il rewind, stavo per dirti, hai dei modi per rollare? A parte rewind. Che glimpse. Ma infatti, avevo usato anche quello, posso... Faccio il rewind. Sì, hai every talk che se lo casti ti dà più 2 a sto tiro. Allora, fermi. Posso castarmi Every Talk e ritirare pasta o vuoi che faccio rewind? Per me puoi farle anche tutte e 3. Allora, mi casta Every Talk uno poter... sì, no, sì, piano. Sì. Overkill. Allora, vedo che non mi ricordo. Dico, intanto poccio il sangue di lieto, uso Every Talk, che appunto mi dà... No, non è Every Talk, è quell'altra che dà più giallo, vero? Quanto fa Every Talk? Dai, no, mi confondo. No, vai. Ah, quindi no? Solo Future Glimpse ti dai reroll e Rewind ti dai reroll. E facciamo che Rewind quante faccio in base se alla fatica? Se fai tutti e 2 sono 4 tiri e prendi il più alto. Posso fare tutti e 2 per guadagnare esperienza e farmare? Rewind non ti dà esperienza. Vabbè, Future Glimpse sì però. Sì. Sì, puoi fare... Vabbè, ti do un punto a teurgia, fatelo da veramente. Yay! E rolla. 4 di 10? 3, perché uno l'hai già tirato e l'hai fallito miseramente. Otto prendi il più alto, come 4. Te la tiri, porco Dio. Esatto! Il comando. Realizzi... che c'è una dissociazione che diventerà molto comune per Adone ed è che i tuoi ricordi si sono mescolati con qualcos'altro e non sono i tuoi ricordi, sono quelli della vocina simpatica dietro di te. La vocina simpatica che ti ripete lentamente un nome che ti ha già menzionato. Devo fare la voce di Rigel, che è molto difficile perché eri tu a fare Rigel, quindi... E ora mori. Wow. E Rigel va avanti. Ok. Il dio della morte Berber. O di Porto Leone o qualche stronzata del genere, non so, la storia di quei posti là. Ok. Adone rimane un attimo così e... Perché ci dovrebbe essere una cosa del genere qua? Questo lo dice ad alta voce. Sì, lo sentite tutti e state cominciando a pensare che sia pazzo. Se non l'avevate già... Non lo sapevamo già, esatto, sì. Tipo... Esatto. È tipo la seconda cosa che avevamo detto. Questa è una... Ora Mori è il dio degli affogati. Forse è normale trovarlo in mare. Meno comune trovare un animale che veneri un dio umano. Un animale che venera un dio? Vedi sec. Adonis ci pensa, dice Dobbiamo tenerla la stella, secondo te? O è pericolosa? Non sembra avere intenzioni. Purifica l'acqua. Miffy mi sembra affezionato. Adone realizza un attimo, dice: non stavo parlando con voi, però ho capito di cosa si tratta questo sigillo. Si tratta di Oramuri, è un dio della morte berber, un dio degli affogati. Quindi tiriamo fuori bordo la... l'animale. No, maledetto. No, aspetta. Da quando in qua gli animali possono fare una cosa del genere? Di base non possono, quindi fuori bordo. Oh no, dovremmo vedere un attimo, cioè sperimentare, tanto tra un giorno siamo a Esboson, magari c'è qualcuno che ci può aiutare. Adone, parlando ad alta voce, dice: è una cattiva idea consumare una di queste perle, riferitosi a Regal. Non ne ho mai vista una, c'è un solo modo per scoprirlo. Magari vedete chi vi guarda. Magari quando arriviamo in un luogo provvisto di kit possiamo fare un esperimento e consumarne una, ma ora sulla nave non rischierei. Sì, anche perché chissà se c'è qualcuno. Pensate che abbiamo fatto questa, mi pare l'idea migliore di questo momento. Ok. Cioè, quindi aspetta un attimo, quindi questa perla somiglia alla perla della macchina che ha prodotto Anibal. Che cazzo c'entra un dio della morte nelle macchine? Però... Mito che sta cercando di attingere alla sua conoscenza di come cazzo fanno i medikit, ok? Ed è tipo... Ricordiamo che i manapenni sono un risultato, sono estratti dagli avatar. Prego, è l'unica con Nibel. Anzi, hai fatto un tiro, sì, ma era la... prima, che te lo tengo anche per adesso. Ricordi esattamente la moneta che ha messo nella macchina, e te lo ricordi perché non era una moneta comune dalle tue parti, era una moneta di Aniasmea. Chi vuole vincere un biscotto e indovinare che simbolo c'è su nelle monete di Aniasmea? La lisca di pesce? No, la lisca di pesce. Ho vinto un biscottino? No, sì. Yay! No, sì. Quindi è un devi dirmi gacha. Di sì, perché altrimenti ti sto male. Quindi le macchinette delle robe lì sono dei gacha. Ci metti una moneta di un tipo, ti esce la pallina. Non credo sia quello il senso. Hai detto che Adelfo ha smanettato sul macchinario. Sì, ci ha infilato una moneta, non mi ricordo se ci ha smanettato in qualche modo, poi è uscita fuori questa cosa qua. Ed è corso via immediatamente. Quando è uscito fuori dal bagno era... sembrava stremato, sudato, e aveva le tasche piene di qualcosa. Sul momento non ci ho fatto caso, pensavo avesse problemi di stomaco, però lo sanno di poi. Io infatti non riesco a prendere su serio questa scena, perché immagino lui che si è cagatissimo addosso. Dal suo punto di vista era una persona che aveva ansia per firmare un contratto e... è stato male, è andato in bagno. Cioè era normale. Quando l'ho detto la mucca lo sa, immediatamente controllato la macchina e la sua espressione è cambiata subito ed è uscita fuori e poi l'ho rincontrata dopo per quando abbiamo firmato i contratti, per quando io ho firmato il contratto. Sembrava preoccupata, interessata, spaventata. Mi sembrava interessata, tanto che poi ha fatto una proposta di lavoro. Ok. Quindi sì, voleva... Non l'ha fatta anche a te la proposta, Leto? Sì. Leto aveva rifiutato in maniera plateale l'offerta della Mucros. Gli aveva strappato davanti il contratto. Sì, me lo ricordo. Può darsi magari che il tuo ex collega avesse fatto qualcosa. Anche perché la Mucros, da quanto ho capito, tende ad accerchiarsi di persone interessanti, quindi può darsi che abbia sentito qualcosa, darsi abbia sentito qualcosa su di te. Non mi stupirei. Sì, mi sembra il tipo di persona che colleziona talenti e conoscenze. Anche umani. Pausa, l'inquadratura si salta su Deimos, su Yona e su Marika. Ritorna all'inquadratura normale. Ci stava. È stato molto funny, bravo. Sì. E... Napoleon, Dio. Scusate. La nuova skin ti piacerà un sacco. Per favore. Comunque credo che per il momento non possiamo farci niente. Possiamo provare se proprio a dare del sangue alla stella. È l'unico altro esperimento che oserei fare. Guarda, ci sono le mie teste, sono imbrattate. Dopo vado a prenderle allora. E... Ok. Quanto siamo distanti da Porto Leone in questo momento? Pochi chilometri. Cioè, non lo vedete un po' perché è buio, ma in realtà manca veramente poco. Cioè, domattina arriverete. La centrale quanto è distante dal mare? Non lo sapete. Cioè, okay, io lo chiedo a loro. Voi sapete quanto è lontana la centrale di Porto Leone dal mare? No, voi state andando. Mai stato a Porto Leone. No, infatti. Sì, lo so. Scusate. Lo so. Non Mif lo sa. No. E che cos'era la moneta di Aniasmea, la moneta di Adelfo? Che è la città più occidente di Azmea, che è un altro posto dove non siete stati, dove potevate andare, dove dicevano che era andato Adelfo. Che è distante da qua? Sì. È in Turchia, mentre voi state arrivando a Cipro, e Porto Leone è il Cairo. No, è sotto il Cairo. In che anno hai fatto il viaggio in Adiria? Meno di 20 anni fa. Quindi... Sì, ne aveva 18. C'era già la centrale, quindi sai, l'hai vista da lontano, che la centrale è costruita tra la città di Porto Leone e il deserto, quindi è effettivamente vicina al mare, cioè sono pochi chilometri dal vicina. Mare. Ok, okay, allora Miss... Per voi, per capirci, è tipo la penisola araba, è tutto deserto, ci sono delle oasi e è enorme. Però il lato più occidentale è tutto in corrispondenza del mare. Quindi la centrale è in questa zona qua, cioè il confine tra il deserto e la zona fertile. Mischi fa effettivamente molto vicina al mare la centrale di Porto Leone. A meno che non siano cambiate le cose in questi anni, però a pochi chilometri dall'acqua. Dici che queste creature dall'influenza della centrale si stiano spostando? Se ci sono scarti o qualcosa del genere potrebbe aver senso. Ad Apeira alla fine nei fiumi della città ci sono gli abomini di animali. Ciao. Alla fine non è detto che l'animale debba avere per forza un concetto di fede, credo, o qualcosa del genere. Se viene influenzato, distinto, produrrà qualcosa deforme che ha a che fare con l'influenza che gli è stata data, suppongo. Ma... Sì, un attimo di meta. Vai. No, volevo sapere se... Perché Adonai usa i free talk? Non può parlare con la stella marina? L'ha già fatto. Però si può rifare. Posso rifarlo? stavi per dire questo, Bianic? Stavo per dirti... Che altri animali strani hai visto, te che sei l'esperto del gruppo di sta cosa. Infatti ci stavo pensando adesso, sto pensando tipo banalmente ai ratti e... però i ratti però erano parte della malattia, ma non era, cioè non mi ricordo bene le conclusioni, però tipo non è che fosse esattamente una malattia, cioè non eravamo arrivati al punto di classificarla come tale, ma nemmeno i ratti non erano meccanici. Sì. erano metallici, sì. Potrebbe essere, pardon, appunto parlo, potrebbe essere che la stella marina abbia consumato del mana, effettivamente. Perché però un dio della morte, cioè Porto Leone la moneta era al leone alato, giusto? Ok. Quello non quadro. Esatto, ma... c'è discrepanza. Abbiamo dell'acqua che non viene da questo mare. Avete già bevuta tutto, temo. Avevate poche razioni di questa... Adone dice... Piccio! Sì, Adone dice questa cosa proprio per dirti. Possiamo provare a provvedere con degli altri liquidi. Non sei elegante, Adone. Magari chiedi prima ad Attilla se effettivamente vuole altri liquidi. Le parlo adesso. Cast every talk. E dico, mi riscrivi come si dice il nome? Iruma... Irumaru. Irumaru. Sulla mappa. È che non guardo Roll20. Ok, signor Irumaru. Lo voglio, Irumaru. Provo a fare. Ti faccio un bel modello. Faccio un keychain. Scusate. E Adone dice: vado, cioè, si affaccia sulla stella e dice: e Irumaru. Cioè, lo chiamo. Cosa volete che gli chieda per primo? Come fa? Allora, forse magiche. Ok. Si è nato vicino alla centrale. Okay. Venera al dio della morte. Berber. Irumaru, tu sai cos'è la magia? Sì. Sai utilizzare la magia? No. E le tue perle, abbiamo scoperto, sono magiche. Evviva! Dica. In realtà lo capisco anch'io. Io guardo la sala e dico, ok, questa mi è nuova. Allora dice... Minchia, mi sono perso il filo del discorso. Non ha un cervello, ok? Non è che pensa. Sì, no, infatti non ha un cervello. Sì, eppure io sto cercando di dire come cazzo faccio le informazioni. Ok, dice, Irumaru, tu sei... provieni da queste acque, da questo oceano? Un po' più in giù. Sei stato portato qua dalle correnti o qualcuno ti ha buttato via? Ho nuotato. Ok, ho nuotato. Ok, Irumaru viene da un po' più in giù, mi ha detto, non chiedetemi da dove, perché non è capace di saperlo. Magari c'è qualcosa di... Irumaru, com'era fatto il luogo in cui sei nato? Sei nato? Sì. Ok. Okay. Com'era il luogo in cui eri? Era più freddo, era più caldo? Io non ho gli occhi, però posso dirti che era più freddo. Grazie. Sto vedendo gli occhi. Irumaru, ok, quindi c'erano... più giù e dove c'è la Niasmea? No, direi, cioè, cosa c'è più giù? Scusate, non sono... L'isola di cosa? Profondità o l'isola da dove viene Aku? Non credo che venga da un'isola. Lui sente solo quello che dice Sirio e lui peraltro è un po' sbagliato, perché comunque è undernuta. Vabbè, scusate. Irumaru, c'erano mostri vicino a dove ti hanno trovato? C'erano mostri? Dove sei stato trovato? Ok, ha detto di sì. No, io ho Wild Lover. Ah, puoi parlargli? Sì. Cazzo, non me lo ricordavo, scusami. Stavo... comunicare con piante e animali, a meno che non viene considerato un animale, no, posso no, comunicare no. Con... Ok, sì. Che paura se non viene considerato come un animale. È per questo che ti dicevo, cioè, che Nibel dice... che Nibel è stranito dal fatto che lo capisce, perché è la prima volta che capisce l'animale. Hai ragione. E la differenza è che quando parla con Adone ha un pochino più proprietà di linguaggio, quando parla con te dice cose molto secche. Cioè, se esprime un concetto raffinato lo capisce solo Adone. Non esprimerà concetti raffinati a una cazzo di stella marina. Scusa. Ti chiedegli alla stella marina se conosce un dio, conosce? Il concetto di divinità. Provo. E Irumaru, tu segui un dio? Sì. Chi? Non so come si chiama. Mi aiuta quando sono in difficoltà. E ti ha detto questo? È stato questo dio a dirti di salire sulla nostra nave? No, mi ha detto di andarmene perché era pericoloso. Pericoloso perché? Perché c'era qualcosa di pericoloso. Ok, Adone si gira verso di voi e riporta queste parole. Sono tanti sicura. Gli animali che... Sono tanti gli animali che vennero dai. Provo a chiederglielo. No, no. Scusate. Sì. Quindi credo che sia tipo un... Chiedetegli come si chiama il dio. Ha detto che non lo non sa. Non sa come si chiama. Non lo sa. Ok. No. Come l'ha visto? Come l'ha conosciuto? Com'è che hai conosciuto il tuo dio? Ero in difficoltà e mi ha guidato. Lo hai pregato? Dopo sì. Ok. Irumaru dice che... il dio lo ha aiutato e dopo Irumaru ha iniziato a pregarlo, a venerarlo. Ok. Questa stella è un avatar per caso? Il dio più inutile del mondo, l'avatar più inutile del mondo. Io sono la caramella più forte del mondo, per una stella marina. Credo risponderebbe cos'è un avatar? Io avevo mutato, non sapevo che ci fosse questa bellissima musichetta di sottofondo. È appena iniziato ha detto qualcosa riguardo se ci sono dei mostri nelle vicinanze. Stamattina ci aveva detto che ce n'erano grandi, molto grandi. Irumaru? Sì. Ci sono mostri nelle vicinanze. Anche Aku sospettava che ci fossero... potessero esserci dei problemi, visto che le creature che abbiamo affrontato sono tipicamente del sud. Nel caso lo stesse chiedendo, visto che l'avete menzionato, Aku è lontano, ma sente tutto, e ha in bocca 8 sigarette, le sta fumando tutte insieme. È una metafora per dire che è ansioso. Ok. Effettivamente è il momento di chiedere ad Aku se ha mai sentito una cosa del genere. Fortunatamente alza lo sguardo e dice: Aku, vuoi venire a parlare con noi? No. Condividere le tue conoscenze con noi? Stiamo parlando con questa stella marina. Non vuoi parlare con una stella marina? Lo prendo io il timone, posso usarlo? Sì, prendilo un secondo. Vedi Aku che se prendi il timone razzola tutti i pesci che non avete mangiato e li getta in acqua. sì. Fatto una preghierina, Aku. Stai zitta. Hai gettato l'esca, quindi. Quindi insomma, non l'hai mai sentita una stella marina che pregava una divinità? No, questo no. La divinità di cui state parlando invece è famigerata dalle mie parti e porta sfortuna anche solo nominarla. Ah. Come si chiama? Esatto. Non diciamolo. Sappiamo tutti scrivi, come... scrivi metà e poi l'altra metà e leggiamo una. No, e penso una. Ti mando un WhatsApp. Mandami un WhatsApp. Non sono un tipo religioso, ma so quando non esagerare, e questo sembra uno di quei momenti. Ti assicuro per esperienza che gli dèi sono effettivamente così tanto permalosi. Vero, Leto? Eh? No. so di cosa state parlando. Facci dire questo cazzo di nome a sto tipo, dai. La maledetta. Vuoi che un altro avatar piombi in mezzo ad una piazza e ti faccia a pezzi? Cioè, io non sono fisicamente pronta per una cosa del genere, ma neanche mentalmente. Io ho finito i miracoli in canna. Quindi... io ne ho ancora uno. Vogliamo un dio della morte qua, dai. Cioè, insomma, che sta vedo l'ora. Fossi un avatar? Ha bestemmiato per da quando siete partiti per il viaggio. Ed è tipo, non ci credo. Non è giusto. Non potevo saperlo. No, povero Aku, non si merita. Ma ogni volta che incontriamo un NPC, tipo, non si merita niente di tutto ciò. E si merita a voi. Vabbè. Sì, gli NPC del pianeta non si meritano niente di quello che gli arriva di solito, solo poco. Beh, io direi di tenere questa stella marina, se effettivamente è qualcosa di particolare, è meglio averlo appresso. In più ci purifica l'acqua. Se è un suo credente, suppongo che non ci manderà addosso i... non lo so... E lo stiamo aiutando, infatti, sì. Lo stiamo aiutando, quindi... non ha ci farà da portafortuna, suppongo. Esatto. E... Volevo chiedere un'altra cosa alla stella marina. E magari quando arriviamo ad Esboson troviamo un posto abbastanza sicuro dove possa stare e crescere. Dovremmo metterci un pochino meno. Lieto ha maneggiato un po' col motore l'altro giorno, quindi non dovrebbe mancare. Sono chiaramente un esperto di macchinari di questo genere. Non lo sai. Tu hai mano messo un macchinario? La seconda volta che... migliora un macchinario, che è chiaramente un indice della mia abilità superiore. E aveva fatto pure 10 sul tiro, quindi. Chiedo un maestro questa cosa, cioè torna a casa e fa tipo l'artigiano dei macchinari. Il dottore della tecnologia. Dottor Oclica invece che dottor Manhattan. Sì. Potreste chiedere al signore Rubaro se cosa succede se ci mangiamo una delle sue palle. Ora ci mette un attimo e scoppia a ridere. Chiamale le perle, per favore. E provo a chiedergli, ma non credo lo sappia. Magari ha visto un altro animale che ne mangiava una, come so. Il Rubaro non ha gli occhi. Percepito, ok, a posto. Una volta che siamo arrivati a Esbodan, proveremo a mangiarne uno. Ok. E chiedigli se vuole essere lasciato ad Esbodan. Cioè, se troviamo un posto tranquillo... Irumaro, tu cosa preferiresti? Noi adesso stiamo... aspetta, che devo... cerco di dirlo in una maniera semplice. Stiamo arrivando sulla Terra. Possiamo trovare qualcuno che si prenda cura di te con acqua? Acqua e cibo. Preferisci questo o preferisci stare in mare? Mi piace l'acqua sporca. Mare, quindi? No. Non ci vedo... no, infatti non è quella la risposta! Cosa ti serve per produrre altre perle? Acqua sporca. Di un purificatore. Sufficientemente quindi. Chiaro quello che vuole questo. Non voglio, vuole essere messo nelle fogne, tipo... No, no, pessima idea metterlo nelle fogne, scherzi. No, no, questa creatura non va... cioè, fa... Adore dice, questa creatura non va lasciata libera perché altrimenti continuerà a fare perle a dismisura. Immaginati una creatura del genere nelle fogne. Cosa creerebbe? Quando vedete il video delle orbis che escono dal cesso, dalle tubature e distruggono un vicinato, ecco, io ho quell'immagine in mente. Se fossi un posto troppo pulito per me. Tranquillo, Irumaru, è un posto brutto, non adatto per te, troppo pericoloso. Ok. Quante perle puoi fare ancora nell'acqua in cui ti trovi? Hai bisogno che te la cambiamo? Ancora due. Ne puoi fare ancora due? cioè ne fai altro. Stanotte. Okay. Anzi, plop. Beh, gliela possiamo sporcare. Vado a prendere il tuo sangue, Mif. Effettivamente. Chiedigli se cambia qualcosa e gli allunga la mano. Il umaro, preferisci il sangue? Ti piace il sangue? Un attimo. Questo è meglio o peggio? Il sangue. Cos'è il sangue? Questo. E prendo la mano di Lieto e gliela ficco proprio dentro l'acqua. Così bruci. La stella marina ti si attacca alla mano e inizia a succhiare. Non succhia forte, cioè è tipo un... Dio. È una roba... Una ventosetta, esatto. Yes. Poi si stacca, inizia a vibrare, a roteare e dice... Sì, è buono. Bene. Adone va a prendere le garze usate di Mif. Così magari ve le pulisce, se le possono mettere domani. Non utilizzarle, Mif, queste qua. E gliele poccio dentro, poi le strizzo e gliele poccio. Mi stacco... Sì, è un attimo! Le strizzo e gliele levo, non sono... E mi stacco... Mi stacco uno dei funghi che ho sul braccio e io lo metto nell'acqua. Ci cago dentro e via. Ok, sul fungo ho una reazione diversa. Quella non mi piace. Ah, no, non vuole il fungo. È come la mia cacca. Come mai? Ok, sì, ha senso. La tua cacca sono le perle, su sì. Queste qua. Ok. Il fungo, guardo il fungo, non ha tipo un simbolo dentro, no? Un po' di sangue da mettere sul fungo. Qualcuno vuole mangiare anche questo? Vabbè. Haku declina educatamente. Se avete la vostra dose di stronzate giornaliere potete andare a dormire e vi svegliate domattina al porto di Esboson. Prima di finire dico... Ah, giusto. Ho trovato una cosa giù. E Haku mi ha detto che posso tenerla, però ho bisogno che qualcuno di voi la analizzi perché non ho più idea di cosa sia. E faccio vedere il martello che ho trovato. Ve lo descrivo rapidamente. È un martello da fabbro a una mano, cioè di quelli da usare sull'incudine. Dalla fattura è molto antico, cioè qualche secolo. Però è tenuto perfettamente, quindi è strana sta cosa. E fatto a mano, nel senso che ha tutte delle, come si dice, delle imperfezioni, delle caratteristiche sulla superficie coerenti col fatto che sia stato fatto a mano. E sembrerebbe mai non essere mai stato usato perché è in condizione pristine. E posso averlo un attimo? Sì, guardalo pure. E vuoi fare un roll di arcana sul... Certamente. Dammi un attimo, devo prendere la tabella. No, devi fare un roll di religione. Religione? Beh, religione... Non puoi fare, ma ti dirà... Non è una cosa magica. Non è una roba arcana. Religione, che cazzo stava... Cazzo c'ho di religione? Su giallo, religione. Due. Più due. Ok. Sei. Peggio di Nibel. Peggio di Nibel. Posso... Adone, posso provare? Certo. Clunk, tieni. Tu c'hai più 4. Tutto tuo. No, non bombardate i Rumaru. No! Non bombardate i Rumaru, no! Shoot him. Ho fatto 6 più 4, 10. Riesce a percepire che ha effettivamente qualcosa di magico, ma non riesce a capire... Che cosa... Uso rewind per tirare di nuovo. Credo che tu ci abbia un... Sì, vai. Uno, dai. Allora, lo sto uno. Merda, peggio di prima. Posso usare di nuovo rewind? Mif, no. Ti vedi difficoltà e ti fa... Vuoi una mano? Sì, grazie. Posso ritirare di nuovo? No, no, ti se vuoi tirare. Vai, pregami. Tutto il martello. ho più 3, ho fatto 8. Peggio di Adone. Quindi cos'è che ha capito Adone? Ero troppo distratto. Questo martello ha qualche potere paranormale, ma non riesce a capire di che genere. C'è qualche incisione, qualche segno? Scusami, io c'ho ancora Every Talk. Posso parlare col martello? Non è... Io avevo visto... Avevo visto che aveva una traccia di magia naturale. Sì. O ricordo male? Non sai benissimo cos'era, ma sembrava analoga alla magia naturale, I guess. Di solito chi fabbrica questo tipo di cose dovrebbe mettere la propria firma, no? Il proprio bollino. Magari c'è da qualche parte? Se lo stai chiedendo a me, ti dico che non c'è nulla sopra. Gli altri vedono un simbolo particolare? Da qualche parte? La fattura è tipica di Apeira. Cioè di Akaias, scusate. L'unica cosa sarebbe eventualmente provarlo, però vorrei evitare di farlo sulla nave, non si sa mai. Sì. Aspettiamo l'arrivo allora. Un sacco di cose da fare. Veramente. Povero porto. Lo arriviamo, lo sfondiamo. Vabbè, andiamo a riposare. Speriamo in un medikit. Uno di voi fa il primo turno per tenere la nave e poi tutto il resto della nottata della mattina lo fa Aku, che ti porta fino al porto. E sì, ho capito, sì, lo so benissimo cosa vuoi dire, non c'è bisogno che cosa lo faccio dire? Io il turno, perché sono ho capito. E vabbè, siamo al porto di Esbozon ed ecco la prima bugia che vi ho detto. Non siete al porto di Esbozon. Aku vi chiama, vi dice di arrivare sul ponte e quando siete sul ponte vedete un villaggio, cioè siete in un porto e dietro ci saranno 8 case, cioè una roba. Probabilmente la famiglia di Adone possedeva più edifici. La casa di Mif ha più metri quadri delle case che ci sono qua sommate. Per farvi dei limiti. Ok. E voi sapete che Esbozon è una grande città con una centrale di mana. Non c'è una centrale di mana qua. Non c'è neanche la città, praticamente. Veramente una manciata di case, sì. Dove ci hai portato? Esbozon è dietro dall'altra parte? Sì. Cosa? È dall'altro lato dell'isola. Col carburante che avevamo a disposizione siamo arrivati a Dallos, che è la città più vicina alla Solveria. Benvenuti a Dallos. Tra l'altro, mi dovete il carburante. Ah, sì, certo. Ti paga lei e indica Mif. Io? No, erano questi patti, si gira verso Nivel. Non avresti bisogno. Mi serve una mania unit intera. Perché nel cazzo di motore ci va una mana unit. Se la trovate consumata parzialmente va bene lo stesso, suppongo. Vabbè, tanto puoi rimanere qui. Vi aspetterò. Tanto ritorneremo indietro. Conosco qualcuno da queste parti, quindi posso starci anche qualche settimana, farò il pescatore. Conosci qualcuno che abbia un medikit da queste parti? C'è una chiesa, se vuoi. Ok. Di chi? Santa Chiesa. Ok. Comunque, generalmente non abbiamo bisogno di mana unit, quindi se la troviamo è tua. Perfetto. Appena siete pronti per ripartire, chiamatemi, immagino che vogliate tornare. Guardo lieto, se la troviamo è sua. Non ho detto assolutamente niente, io muto come il signore Umaru. Percepito i vibe. Attracca la nave al porto, fa scendere l'ancora, lega le cime al pontile e scendete in quella che è la città a nord-ovest di Esboson, Allos. Qua avevo disegnato 9 case, quindi più o meno. Minchia, penso un po'. Ci sono un paio di pescherecci attraccati, non ci sono navi grandi da questo lato. Tutto fa intuire che è uno di quei porti da cui passi se c'è un'emergenza, altrimenti tiri dritto e vai al porto successivo. Cosa che tra l'altro è successo a voi. C'è una piazza del mercato, è mattina presto, sono le 8 di mattino, è il 21? Sì, è il 21 ottobre 1622. È ottobre, sì. Sì, 21 ottobre 1622. Una giornata tiepida, nuvolosa, ma non sembra dar pioggia, cioè semplicemente un po' ventosa. E vorrei descrivervi meglio che posso questo posto. È basata su Cipro, quindi c'è un'architettura che, dalla mia modesta comprensione dell'architettura, è a metà tra i nuraghe e l'architettura greca. Ok. Strutture tendenzialmente cilindriche, tipo torri cilindriche, alle quali si attaccano blocchi rettangolari, tetti spioventi, tutto fatto in rocce accatastate e pressate per formare la struttura principale. Molto rudimentale, cioè si vede che hanno a disposizione molta roccia, molto poco legno, infatti non ce n'è di legno. La gente ha una moda nel vestire leggermente diversa dalla vostra e tra di loro parlano un dialetto pressoché incomprensibile a tutti voi. È una via di mezzo tra il dialetto di Lieto e il dialetto di Acaies e la lingua della Capsara, quindi è incomprensibile. Altre cose che posso dirvi? Niente, c'è il mercato se vi interessa vedere cosa hanno bene, quali sono le cose. C'è una chiesa, la riconosci perché è un edificio un pochino più lungo degli altri e ha un triangolo come simbolo sulla porta. E basta. Ah, e c'è uno stalliere che è relativamente interessante per le cose. Damn, uno stalliere. Vogliamo prendere rifornimenti? Io direi che è il momento di entrare in chiesa e chiedere asilo, come il nostro solito. Sì, e anche per me è la cosa che facciamo meglio in questo party. Sì, evitiamo di rimanere troppo, però, per favore. Sì. Se dobbiamo viaggiare, non possiamo affidarci soltanto ai medikit, alle macchine. Dovremmo comprare qualcosa per... Sì, sono d'accordo. Io dico una cosa in meta, comunque sarà difficile da trovare quella roba lì, perché la gente adesso non è, cioè non usa più medicine e garze e cose, cioè credo che saranno comunque difficili da ottenere. O no? No, dico master, cioè sono Esboson, comunque difficili. La parte est di Esboson effettivamente ha un sacco di medikit e poca roba tradizionale. Allos non ha la centrale di mana a portata di mano, quindi non ci sono, okay. Non sono comuni i medikit, non sono comune le macchine per il cibo. La gente mangia roba tradizionale e quindi si cura con metodi tradizionali. In chiesa okay, c'è il medikit e la macchina per il cibo. Ok, sorry. Sì, no, era una giusta osservazione. Mif sicuramente. E dove c'è il medikit? Che dice l'uomo, fare le nostre stronzate. Ho un'altra il posto domanda. Corretto. Irumaru. Sì, volevo chiederlo. Che fine fa? Lo mettete in un secchio e ve lo portate dietro? Sì. Finché non sappiamo cos'è, sì, dai. Puoi aggiungere due però perle al sacchetto. Scusa, Sirio? Cerchiamo di coprire il secchio, comunque di portarlo in una maniera che si nasconda. Non vogliamo magari qualcuno avere... qua una damigiana o qualcosa del genere. Sì, finiamo in una fiaschetta. Quanti volete. Tanto se è un animale degli abissi, penso che avere anche una damigiana scura che non gli dia troppa luce non gli darà fastidio. Cerchiamo una damigiana tipo con una bocca un po' più larga, così ci può spostare. lo fate quando andate al mercato, però, perché appunto dovete acquistarla, sì, certo, che non vogliate rubarla. Sulla barca c'era solo un secchio, quindi per il momento è dentro un secchio. E ok, ditemi chi entra in chiesa. Se entrate tutti, fatemi solo ok. Io entro? Sì, sì, entro ok. Ah, mi siete la campo. La chiesa è molto molto più piccola di quella di Yelos a cui eravate abituati. È una frazione della cattedrale che avete visto, è più minuscola. C'è un effigie sacra, un triangolo, non ci sono simbolismi, cioè al contrario, ci sono solo simbolismi, non ci sono effigie, rappresentazioni di Dio. Iconoclasta. E il sacerdote è mattina presto, quindi sta preparando per fare messa, è ancora presto per la messa, inizierà tra un po'. Quindi è incuriosito da turisti, perché sono visti turisti, e capelli biondi, pelle chiara, vestiti bianchi, vi approccia e vi chiede: fedeli in cerca di assoluzione? Viaggiatori. Viaggiatori con un po' di sfortuna in mare. Mi spiace, la mia chiesa è sempre aperta, crede nel vero Dio. L'unico che speravamo. Fate come se fosse a casa vostra. Le funzioni religiose inizieranno tra grazie ora. Mille. Grazie. E mi fa appena vedo il medikit, va dritta. È già carico, non devi spendere. Oh, sì. Fa tutto. Fa tutto subito, cioè. Sì, sì, sì, sì. Si poteva quasi. Dobbiamo fare i tiri per il riposo. Giusto. Sì. Possiamo farli adesso? Ok. Sì, dai. Andiamo se li facciamo adesso, almeno poi ci curiamo eventualmente. Esatto. Adone, hai mangiato, yes, e hai dormito, per cui tu non rolli. Sì. Benissimo. Nibel, hai mangiato e hai dormito, quindi rolli tutto lucky. Cioè 2d8, 2d8, 2d12, 2d8. Ok, roll, mi hai detto 2d8 e prendi il più alto, 2d8 prendi il più alto, 2d12 prendi il più alto, 2d8 prendi il più alto, 5, sì, 7, 12, 9, 21, 2d8, 8, 29, più 4 più 3, 7, 2, 9, 1, 10, hai 39 di vita. Il max non cambiava, giusto? E il max no, perché è calcolato. Quindi ti segno come vita attuale, okay, quella che in realtà sarebbe la vita massima del giorno. E la vita attuale, sì, sì, vera, sì, la segnerò su Roll20. Fatica quanto? Hai 0, perché l'hai recuperata riposandoti due ore, non te ne rimane. Gioca. 2d4, 2d4, 2d4, 2d6. Prima i 2d4. Non sono 3d4? Sì, però è lucky ciascuno dei 4, dei 3. Puoi tirare 3d4 o 3d4 e li guardiamo in colonna, se preferisci. Esatto, sì, vai. Dai. Non so perché ho tolto il D... Non ho tolto il D6, lascia stare il D6. Lascialo, rifallo, così almeno abbiamo tutto il tempo. Ok, vai. 12, 4, 16... 16 più 3, 19. Hai qualcosa che ti dà vita massima nell'equipaggiamento? Sì, 19, 2, 21. 21 e 2, 23. 23 e 2, 25. Sì, infatti hai fatto 2 meno del massimo. Aspetta, forse anche Nibel c'ha qualcosa? No. Non, okay, mi pare. Fammi vedere se Sirio c'ha qualcosa, mi pare di no. No, infatti. No. Andiamo a Lieto. 4 di 4 due volte. Fatta di 4 arrivano. Ok. Bello. 2 praticamente. 4, 8, 12. Che ne facciamo 3? Con la carne umana? La vendiamo al vescovo. Parroco. Tu sei un vescovo questo. Magari hai rumato un ghiaccio. No, ma oddio. Scopriamo. lo puoi chiedere subito se vuoi. Maru, ti piace la carne umana? A pezzetti piccoli. Trafatto. Mi piace l'idea di che noi abbiamo. Avete presente come i cani che gli addestratori hanno il sacchetto a fianco e tirano fuori così i treat? Noi che ci abbiamo da una parte la damigiana con la carne e a pezzettini gliela diamo così. Wow. Dietro dammi delle lame. No, vabbè, ma fagli la carne macinata col martello nuovo. Vabbè, tutto adesso. Ma serve un coltello per fare due coltelli, bisogna usare. Miffo, no, la pelle su di me, dico che abbiamo le pezzi da aggiungere. Ah, dici, voglio fare una bella tartare per i rumori. Sagra. Di carne umana. Avete la meridiana di Kronos che vi siete tenuti, le conchiglie da lancio le puoi usare come coltelli, sono affilate a sufficienza. Allora con la conchiglia incomincio a tagliare però vado fuori, non rimango in chiesa, non faccio sto morto. Non c'è qualcuno ha un tagliere, una tavola di legno, qualcosa. No, trovi dei banconi lasciati fuori dalla chiesa, sono vai sul petto di Adone. Fanni lo stesso, non è vero. Ma è tu che dicevi che era piatta? No, non tantissimo. No. Allora. Andiamo avanti. Il metto lì su non lo so, ci sono delle panchine di pietra, quelle robe lì. Cioè, metto lì con la conchiglia, taglio la quante conchiglie ho? Io ne ho 3, tipo. Ah, io non ce le ho, vabbè, le prendo qualcuno. Sì, con due conchiglie a fare zzzz la carne umana. Qualcun altro ha della carne umana? La preparo tutta. Anch'io, sì. No. Io c'ho no, carne umana non so che non ne ho neanche io, No, ce l'ha Sirio. Ce l'hai Sirio, ce l'hai tu. Me ne metto 4 io e la togli da lui. Ok. Te la prendo. La prendo perché non mi fa togliere il 2. Ok, ci mette 2 giorni abbondanti a finirla e produrrà 2 perle nere al giorno. Ok, preparo tutta la carne. Non la metto dentro tutta insieme, sì, ma sì, un po' per volta. Sì, no, questo chissà cosa fa. Tanto se marcisce pure meglio. Probabile. Sì. Siete restored quasi al massimo, quindi ditemi cosa volete fare. Io volevo chiedere al parroco, in realtà vado e dico, mi scusi, vorrei fare una domanda, ha qualche idea su questo martello, ha mai visto qualcosa del genere? Dove l'hai trovato, figliolo? È più giovane di te, però ti chiama figliolo. Un regalo da parte di un amico. Ahimè, la religione del vero Dio mi impone di dirti di tenerti a distanza da questa blasfemia. Sono sicuro che il vero Dio voglia che utilizziamo qualsiasi strumento per diffondere la sua parola. Suppongo. E se questo può servire, non vedo perché non utilizzarlo. Se questa è la tua crociata, sembra intitolato a uno degli falsi dei. Il dio fabbro di Achaias. Oh. Caldo il cannibale. Ovviamente tutti si mangiano a vicenda. Ma il minimo mi sembra a questo punto. Com'è che si chiama? Non me lo segno. K'LDO. E lui l'ha chiamato il cannibale, però cioè ce l'ha aggiunta lui sta cosa. Il cannibale dice... come mai questa nomenclatura, questi... questi dei erano così bestiali. Si dice che i missionari che andarono a convertire i suoi fedeli vennero mangiati vivi. Terribile, terribile. Comunque, mi sembra un ottimo martello da fabbro. Penso riuscirà a fare tranquillamente il suo lavoro. Battere il ferro, niente di più. In bocca al lupo. Se hai bisogno che lo liberi da questa blasfemia, basta che ritorni qua con buoni propositi. Non credo che darà problemi, non si preoccupi. La ringrazio allora. E vado dagli altri. È di un dio fabbro che ha chiamato la bestemmia che non sentivo da un po'. Se è Keldo il cannibale. Il cannibale l'ha definito Keldo. Mai sentito, neanche io. Vado fuori un attimo, ora non rimango nel modello, prendo un pezzo di carne umana, tipo lo metto sul martello, dove succede qualcosa. Non succede nulla. Ok, ritiro la carne, la metto nel secchio di coso, rientro dentro, non ha fatto niente. Devo provare a colpire qualcosa. Esatto. Cioè, devo provare a colpire qualcosa. E che temo come al solito le conseguenze, quindi mi allontano 5 minuti dal villaggio, magari provo a colpire un albero o qualcosa del genere, e poi torno, e vi faccio sapere. Attenzione. C'è qualcosa che possiamo prendere per te al mercato? Non so quanto sarà lungo il viaggio. L'ideale sarebbe prendere scorte d'acqua, cibo non deperibile, quindi essiccato. Pane secco, pesce essiccato, roba del genere. Formaggi, sì. Formaggi. Va bene, vediamo. Comunque non dovrei metterci troppo, vado qua distante. Ok, slittate il party. Ti chiedo se vuoi lasciare a loro i tuoi soldi per acquistare le cose. Hai 13 monete. Non te le tolgo, cioè solo per sapere se sono in mano loro. Sì, sì. No. Ma vi do 2 mana penny. Ok. Con la mano. Vorrei io fare... sapete che Adone non ha soldi, eh? Allora ha fatto il pezzente tipo quasi tutta la campagna. E sì. Non è colpa sua, capito? È successo. Ok, sono a 11 do 2 mana penny a chi si vuole prendere il prezzo. Li metto a Mif. Bene. Vengono fatti sparire. Esatto, li metto a Mif perché sennò qua. Esatto. C'è un albero. Andiamo via. Vorrei fare prima il mercato, se non mi scoccia, e poi la scena di... Ah, la damigiana, la damigiana, prendete la damigiana. Sì, la damigiana. Ok. Secondo me riesce, c'è qualcuno che... dei sonniferi. Cosa? E guardato bene. Non ho capito cosa ha detto Sara. Secondo voi c'è qualcuno che fa sonniferi e ti guarda? A te sono rimasti? No. Perché vuoi prendere sonniferi? Hai che una magia per di... farti dormire. Era per ottimizzarla. Vuoi trattarmi ancora da coniglio da laboratorio? No, non hai capito un cazzo, Adone. Stiamo andando chissà incontro che cosa, ok? Volevo essere preparata. Hai paura, Mif? Sono quasi morta. E ti alzano sopracciglia. Risposta è sì. Non so te, ma io voglio tornarmene a casa poi. Perdonami se non sono una divinità. Adone ti sorride basso e dice: andiamo a cercare se qualcuno ha i sonniferi. Allora, sonniferi di base non è una cosa che si vende. C'è un emporio che vende erbe e altre cose, e puoi fargli vedere la tua ricetta che hai sempre con te per chiedergli se riescono a prepararlo. Dice... Sì, però aspetta, fermo un secondo. Io non posso dare a Mif la mia ricetta perché muore Mif. Dobbiamo prendere dei... Non è su Mif che la devo utilizzare. Su chi la vuoi utilizzare, Mif? La voglio utilizzare come arma. La vuoi utilizzare per quello che è, un veleno? Esatto. D'accordo. Allora Dune va e chiede se ci possono dare gli ingredienti per la sua ricetta. O magari qualcosa di leggermente più lieve, cioè, esatto, volendo. Alcuni dei componenti che servono per fare il tuo sonnifero sono molto rari, come ti ricordi. Quindi la speziale con cui stai parlando ti propone delle alternative che sono comunque in grado di stendere un cavallo. Quindi... Perfetto, va benissimo. Per un sacchetto, quindi 8 dosi, ti chiede 5 manapenni. E scalali da me. 8 per 5. E vai a 18. Ok. Sì. Poi, la stessa speziale ha in vendita alcune cose che ti dico, visto che siete lì. Vende dei cubetti dolci di miele, cioè scoperti di miele, che si chiamano Carcub ed è una specialità locale. È una speziale, quindi anche degli utensili. Ha un corno di capra, cavo, che può essere usato per emettere un suono molto forte. Cerca di vendertelo con insistenza, dicendoti che è una specialità del territorio. E sarà tuo per sole 2 monetine. Ha la panacea, che è quello che guarisce il bersaglio dai malus, l'unguento che recupera 5+2 e prende di fatica, e visto che siamo in un'isola e quindi ci sono meno leggi, vende la droga. Vende il mux, che è la droga di cui si faceva Maria. Wow. Però magari serve a Nibel. No, posso vendere la mia di droga? Sì. Te la compra. Vai. Quanta ne hai? 5. Davvero? Sì. Minchia, sono 10 monete. Vedi, tuo papà ti ha lasciato un'eredità. Wow. È legittima quella di Zanzan. Sì, lo so. È legittimo la Zanzan, il problema è che Zanzan aveva guadagnato una mana unit che non ha lasciato a nessuno. No, l'ha lasciata a Ren, già. Se ti ricordi. Vero. Che non sarà un cazzo felice quando vi rincontrerà. Ma questo è un altro discorso. Oh mio Dio, ce la rincontreremo? Sì, la rincontrerete, errore mio. Ah, ok. Ho detto quando, per il mio copium. Adone. Sì. Hai un feeling quando sei in questo emporio. L'emporio non immaginartelo al coperto, è una bancarella in mezzo al mercato. Ho detto ci sono 8 edifici in tutto, quindi è tutto all'aperto, tutti i tendoni. Una bancarella ha un oggetto che ti richiama a sé in un qualche senso, cioè senti un feeling. Okay. È una piuma molto grande, cioè di un animale molto grande. Ok. Appena abbiamo finito qua dallo speziale, Adone vuole andare verso quell'oggetto. Ok. C'è un uomo a vendere questa cosa, un trentenne, un giovane uomo, con i baffi, dei baffi molto importanti, che vedendoti che sei una bella signorina, non hai cambiato genere l'ultima volta che ho cercato, a meno che tu non voglia cambiare genere in chiesa. Ah, vero che c'è quella cosa lì? Sì, come vuoi te. Veniamo a Dona? Ci arriviamo. A donna. Bella donna. A donna Summer. fa un po' il marpione con te, no? Si lisce i baffi e dice: signorina, sa che questa piuma porta fortuna? Ah sì? E in che modo? È una piuma del dio Pelstaia, che egli ha perso durante uno dei suoi viaggi in volo sopra quest'isola. Ah, davvero? Sì. Normalmente la tengo come mio portafortuna, ma mi sembra che lei ne abbia più bisogno. Gliela vendo per 10 monete. Posso provare a tenerla in mano? Certamente, e te la porge. Io guardo la piuma, sento l'energia di Pelstaia, vero? Pesa meno di un cuore umano. Questa è una cazzata, sottirare il cuore. La religione, le battute egittologhe, che comunque si applica ad Adone, perché Adone l'ha tenuto in mano un cuore. Non solo, anche il cuore di Kronos, vero? 10. Tu non hai mai interagito con Pelstaia, mi pare. No. Quindi non hai la più pura tranne idea. Quando Silas ha usato la magia. È vero. Eh sì, c'ha lo stesso vibe, la stessa impronta magica. Diciamo che quando sei molto esperto in magia naturale, in questo caso, riesci a percepire come se fosse un odore distintivo, un suono distintivo della voce, che è che lancia la magia. E questa magia ha lo stesso timbro. O comunque molto simile. Ok, Adone a questo punto non ho idea di cosa vuoi fare. Sono terrorizzato ma anche un po' eccitato. Adone, tenendo la prima mano, si fa un po' avanti sporgendo quel poco, che non è poco comunque, che non è poco. Che la livella segna 0 gradi, se ce la ci sono. Aspetta, ma non l'ho capita. La bolla. Ma non è flat, a dove c'è una terza, di tutto rispetto. Per gli standard di cosa, è una retromarcia del mondo reale. Mi sei in cavolo, cioè. Comunque, scusatemi, la mia azione è... Dove cerca di sporgersi un pochino e dice... Beh, adesso cosa dire. Sembra proprio un oggetto che porta molta fortuna. Magari per una ragazza bella come me sarebbe cosa buona e giusta portarmi una cosa appresso, non trova? Persuasione. Fammi un 20 e te la regalo. Mi ricordo che questo gioco si può fare, vero? No! Posso dare rewind! In teoria sì, in pratica ti sconsiglio di farlo perché ne hai 3 al giorno. E siete al mattino presto. Dovevo usare Future Glimpse. Quelli erano 2 di mana, che forse anche quelli era meglio. Vedi che... No, dai. Ma Patrice è un buon tiro. Ah, non riesco a resistere a una persona con degli occhi così dolci. Però sono un uomo d'affari, comunque bisogna mandare avanti il negozio. Dai, 2 monete. 2 monete e un bacino. Dai, va. Sto pensando, perché io vorrei fare qualcosa di più, ma non è un uomo sposato. Ah, tu ci scopavi proprio. Perché no? Allora, fosse un altro personaggio, no, glielo proponevo e poi lo traviavo. Ah, okay. Cioè, gli davo un pezzo, un colpo di testa. Però Adone non farebbe nemmeno così tanto. E dice... Beh, vado a chiedere ai miei amici. E rimane un po' così vaga per... Vaga? E Adone si gira verso Mif e dice... Hai 2 monete. E il bacio. Glielo dai davvero il bacio. Non ha specificato se a lui. Tipo. Monete, no, accetta solo due manamonete o dello staff, per intenderci. Cioè, o nell'inventario cose. Accetta valore di due monete. Io potrei sulle monete. Perché i manapenni ci possono servire anche per gli incantesimi di os, cioè di needle e cose di questo genere. Sono utili i manapenni. Ma cosa ci abbiamo usato? Io posso dare solo quelli di Apeiro. Esatto. Ma staff, cioè cosa vuoi provare a barattare? Erano robe che avete preso ai mafiosi, quindi sono oggetti che hanno esatto. Il valore in manapenni. Ah, esatto. Ok, allora, ma non sono una penna. Esatto. Quindi tolgo due da staff. E segno ad Adone la vera piuma di Pelstaia. Mamma mia. Ah, giusto, e il bacino e Miff bacia sulla guancia ad Adone. Sorridendo al... Lui si dice ai baffi e dice, sai, va bene lo stesso. Sapevo io. E fa l'occhialino. Andiamo tesoro e ti prende la mano. Sta gente del continente. Andiamo. E le loro stranezze. Lieto si avvicina. Uno dei due è un uomo. E se va. Bellissimo. Oh no, il padre di Lieto. Zan Zan. Scusate, sono un idiota. Invece che gli hai detto questa cosa, però non gli hai specificato chi, quindi rimarrà nel dubbio per sempre. Vale. Eccoci. Cosa ho colpito? Ho dato una mano al tavolo e ho bucato qualcosa nel mio dito. Mi spiace. Cosa fa la piuma? Come scusa? Cosa fa la piuma? Non lo sai. Polvere. Però mi disintegra. La devi. Senti che la devi tenere con te. Pestaia, mandami Silas nudoleato qua, grazie. È la piuma di Fenice di Final Fantasy. Quando muori puoi restare. Talmente quello. Grazie per averlo spoilerato. No! Ho fatto 2 più 2. Sì, ma ho fatto il culo, volevo tenermi la sorpresa. Adesso la strappo, la mangio. Allora, ci sono ancora due banchetti che sembrano interessanti da visitare. Uno è un fabbro, fondamentalmente un fabbro, e l'altro è un... come cazzo si chiama? Cioè, sartoria, ma anche oggettume, un altro emporio, fondamentalmente. Un emporio. Se li volete vedere, se no... guardare ma sì, vado al fabbro. E dai, ghiaccio. Infatti dobbiamo prendere il cibo e altro. Per cui ha un listino delle cose che sono in vendita. Te li leggo, poi se ti interessa qualcosa ti do i dettagli. Primo posto, un labris, che tutti conosciamo, tutti amiamo. Non c'è bisogno di spiegare cosa sia. Secondo posto, un lokmashir, che nessuno di noi sa cosa cazzo sia. Terzo posto, un'arma da fuoco battezzata Sul Eater. Quarto posto, un'arma magica chiamata Vainglory. Basta, queste sono le armi in vendita. Poi ci sono armi, cioè proiettili, armi generiche, tipo... I primi due oggetti che cazzo sono? Il labris. E il secondo era? È una... Lokmashir. Quello. Ok, il Lokmashir è una... Io non posso credere di aver messo questa cosa. Sirio, stai attento perché è per te questa cosa. Il Lokmashir è la spada ciambella. È una spada con un buco nel mezzo. Io... Nel senso, no, è allungata, vedete, e poi c'è un questa buco. È la scena. Vedete che Adone si trasforma in una maniera... Proprio la carne che si spezza, le ossa che si rompono. Appaio io... Prendo quella spada, la distruggo in due e torno ad One. La spada ciambella, dicevo. è una spada, un diavolo. Vuoi cogliere la spada ciambella, per favore? Se la comprano, no. Se non la comprano, non tornerà mai più. Ma esiste un nome che ti sei inventato tu? Vuol dire spada ciambella al turco. Ok. Grazie per avermi chiesto, sono molto felice che qualcuno l'abbia chiesto. Sì, perché no, Shir sì, vuol dire spada. La Shamshir è la spada tipica ottomana, sì. Curva. Lokma è ciambella, quindi è Lokma Shir. E l'altro era? Quando ce l'hai equipaggiata, con una reazione puoi tentare di parare l'arma, l'attacco del nemico, e disarmarlo se hai successo. Scala in base alla tu tua... Tu più perdi! Sì, prestidigitazione. E l'altra... E l'altro? Abbiamo l'arma da fuoco, la Soul Eater, che è una variante della pistola... Sì, è una variante della pistola a mana penny, che usa la necromanzia e drena la tua forza vitale per sparare, e se il bersaglio muore ti rigenera forza vitale. Si usa per andare a caccia. E l'altra è la Vain Glory, che è un'arma magica a due mani, è tipo una sfera e devi usare entrambe le mani per gestirla. Colpisce un'area 3x3 infliggendo danni sacri, quindi 4 danni sacri a tutti quelli che si trovano nell'area. Spendi 1 fatica per ottenere S cariche di questo oggetto e spendi una carica per attaccare. Tiro. Quanto viene quella? La Vain Glory costa appena 25 monete. One shot. Cioè, rimane con una pelle. Vuoi iniziare a rubare? Io ne ho abbastanza. Un pochino, magari. Da un po'. Non hai problemi di adore. Esatto. Wow. Cioè, che era? Com'è? Il primissimo oggetto. Qual è che era? Il primissimo oggetto era la Labris, che è l'ascia di penne. Ah, ok, posto. Viene 44 monete. C'è Miss che guarda Lito. C'è Miss che guarda Lito. Ti guarda con due occhioni molto dolci dolci. Sarebbe carina la sfera. La risposta è in chat. Io mi posso occupare delle altre spese. Ho i soldi di Nivel. Dobbiamo prendere la giara, le provviste. Così non ti rubo più la pistola. Puoi vendere la pistola. No vabbè, accetta i 18 di staff lui. 18 di staff, ne mancano 7. Yeah, sì, 18 di staff e 7 di... Va la penny. Non c'è problema. Mi devi un favore, Mif. Anche lui, se vuoi, basta chiedere. Anche perché mi pare che 2 giorni fa sei caduto come un pero fuori dalla stanza mentre mi stavo cercando di medicare, quindi non penso ci siano problemi. Da una pacca. Lei mi ha addormentato con le mani. Sì. Allora, ho tolto tutti i soldi da Lieto, quindi non togliere niente da te per ora, Mif. Ok. E il segno. Mi ridevi. 19 manapenne, amico mio. No, ok, ci sono. Posto. Non è una base. Ah, ok, te la metto nel secondo slot. E ti metto anche la descrizione dettagliata in documento. Hai 0 di competenza arma magica al momento, quindi non la mia cazzo. Ovviamente. Poi. Oh, ma qualcuno interessa qualcos'altro? C'è l'ultimo negozio, se no. E poi andiamo a. L'ultimo negozio! Ok, l'ultimo negozio è un altro emporio. Vendono i cavalli. Cioè, emporio, stalla. I cavalli di questo posto si chiamano Cadeddu. Chi siamo in Sardegna? Siamo capottana. Sì, è un cavallo sardo, il Cadeddu. È un cavallo leggero, adatto a muoversi in terreni non particolarmente brutti, quindi su quest'isola è perfetto. e si può affittare per 4 monete al giorno o acquistare definitivamente per 40 monete, ma poi bisogna dargli da mangiare perché è un cavallo e quindi muore di fame. Se molto facile da cavalcare, combatte anche. Buona la carne del cavallo. Benissima la carne del cavallo. Combatte anche all'occorrenza, se prende 2 colpi muore perché non c'ha tanta vita. Cavallo. Andiamo alle cose interessanti. Anche qua hanno sia il Carcub che il Socorn. Il Carcub è... sono questi cubetti dolci, sono un piatto tipico. Il Socorn è il corno che ci soffre e fa suono. Hanno la pergamena Lux, che crea una sfera luminosa per un'ora che segue chi la lancia, fa luce, ha 10 usi per 2 monete. Poi vendono i vestiti, hanno le tenute e sbite, che vuol dire bel posto. Danno 5 punti vita massimi e hanno un effetto che quando usate un'azione extra per resettare la wariness recuperate 1 di 4 di mana, quindi è da caster, costa 8 monete l'una. L'ultimo oggetto che hanno in vendita è il rosario abissale. È un accessorio per le braccia che dà 5 di mana massimo, resistenza a freddo, resistenza a oscurità. Come azione extra la tua prossima magia guadagna più 1 S. Costa sta cosa? Quanto costa? Stonks, ma sì, dai, la prendo quella. Okay. La paga Miff. Esatto. La paga Miff. Con staff o con staff? Dai, staff. Sì, paga Miff staff e poi. Sì, rosario abissale. Avrei bisogno che mi facessi un roll di religione. Dietro, te lo equipaggio proprio. Credi negli dèi. Aspetta un momento. Questo non può. Non credi nel dio descritto da Rosario Abissale, va meglio. Vabbè, dai, che fai? Non lo ritiro un'altra volta. E rewind, ce l'ho anch'io. No, non lo fare, ti prego. Fallo fare anche a qualcun altro. Un bel roll di religione più avanti. Vero, vero. Interessava qualcos'altro? Cioè dovete prendere le provviste e la giara. Esatto, e la giara. La danno in regalo per Rosario. Ottimo, quindi abbiamo la giara. A chi la metto? Ah, beh, chi l'ha messa intanto. Vai. E cosa vede l'altro? Allora, a quanto pare il piatto tipico è buono anche diversi giorni dopo, cioè non va male, è alta conservazione, altrimenti hanno pecorino, carne di capra essiccata, non so quanto sia buona, non credo tanto, e farina locale che è nera, non so bene perché. Però poi la farina... macinano il piumato. Spero di no, poverino. Ma io una forma di pecorino la voglio, dai. Vai, per una moneta... prendi una forma intera. Una forma intera di pecorino, vai. Se togli uno e mettiti la cosa. Allora, ma la pena. Non vi basta per... cioè, dipende quanti giorni pensate di viaggiare. Non avete idea di come sia fatto il luogo, quindi vi serve anche una mappa, immagino. Non possiamo chiedere a qualcuno del posto quanto distano da Esboson. Certo. Qui siamo su un'isola, quindi basta una direzione, non ci possiamo perdere. Esatto, esatto. Allora, vi dicono che in genere ci si sposta a cavallo da queste parti. Ci sono numerosi stallieri che affittano cavalli, ci sono tanti modi per comprare un cavallo. A piedi è meno comune. Dov'è che siete diretti di preciso? Ad Esboson. Alla capitale. Per la capitale si fa la strada verso sud. Tira fuori una cartina e vi fa vedere che non c'è china, quindi non si vedeva un cazzo, quindi non ve la tiro neanche su. Dovete girare verso sud-ovest, evitare le montagne, girarci intorno, passare per le spiagge meridionali, superare la centrale di Mana e poi tirare dritti. Sono 40, 50, una sessantina di chilometri. Quindi 4 giorni di viaggio a piedi. A piedi sì, a cavallo, ma una giornata di marzo a spedita o in 2 giorni se volete riposarvi a metà. Ci sono un sacco di case, villaggi piccolini, contadini che accolgono i viaggiatori per un prezzo. Ok. Una cartina del posto, dove la possiamo trovare? Posso vendervi la mia per un'altra novella. Io gliela sgancio. È magica, potete trasformarla in un cilindretto facile da trasportare e allargarla quanto volete. Mi sono già tolto il mappa. Perfetto, segnate pure mappa incantata, mappa di Edward, chiamala come vuoi. Per la prossima volta la carico su Roll20. Lesbo mappa. Ma puoi mettere nei handouts? Eh sì, ma non trovo più la foto alla mappa, dovrei prendere. Sì, no, ma tipo anche quella di Apeir per avercele. Così non devi cambiare necessariamente lo schermo. Mi piaceva usarla per muoverci. No, no, certo, almeno lo apro e guardo quella da pera come era prima per ricordarmi eventualmente. Poi metto tutto. Vai. Lo faccio. Grazie capo. Comunque dalla cartina vedete chiaramente che ci sono alcune penisole, c'è cioè una montagna che è una catena montuosa piccina che passa per tutta l'isola e la divide in due parti, nord-ovest e sud-est. La centrale di Mana è costruita su un promontorio, sembra comunque una penisola a sud, ed è quasi a metà strada in linea d'aria tra Allos ed Elbosan. Elbosan è sia il nome dell'isola che il nome della capitale, lo ripeto. Make sense. Linea delle informazioni di servizio, credo. Prendiamo un po' di cibo, che sia formaggio, che sia la cosa a loro. Mettiamola così. Allora, loro piatto tipico, il carcubo, costa una moneta per ogni 5 unità e un'unità è un pasto perché è ipercalorica. Cioè, ah ok, un pasto. No, ok, ho capito. È talmente dolce che se ne mangiate più di uno ogni ora, vomitate. Vabbè, appena prenderlo, scalo io o scali tu dietro? Scalo io, non c'ho. Ok, quindi ti tieni tu tutto il cibo. Per ogni moneta. Insomma, che divide e una copia basta per una giornata, hai detto tipo. E siete in 5, assumendo che Adone non mangi niente, siete in 4, quindi un pasto per ognuno, dovete fare 2 pasti al giorno. Chi è la persona in più? Ci portiamo dietro Aku. Pensavo di Rumaro. Buono, c'ha la carne umana. Vero. E spendo 6 manapenny, quindi 6 per 5 30. 30 unità. Ma anche di meno in realtà, sì, sono anche troppe probabilmente. Sì, infatti, ma spendo 15 unità, spendo 3 manapenny. Esatto, dai. Allora, ti metto la descrizione. 15. Metti. Allora, ne hai 15. Insert note, perché ha anche un altro effetto. L'ho messo come nota. Infiammabile. Esatto. Molto. Se non vi interessa prendere altro, abbiamo finito sta scena. Ditemi voi. No, direi basta, che sono a posto. Direi che magari dipende, quelle cose lì le possiamo chiedere ai contadini che. Sì. Magari ce lo fanno basta. Boh, andiamo da Nibel e poi chiudiamo la sessione, se vi va bene. Cioè, magari vi venite in base a quanto dura sta cosa. Sì, vai, vai. Sei andato leggermente fuori dal villaggio e al primo albero abbastanza grande che trovi ti sei fermato. Uh-huh. Vorrei che mi descrivessi cosa cerchi di fare. Allora, metto giù Irumaru tipo a 5-6 metri di distanza, 6-7 metri di distanza. Poi gli dico... Vediamo cosa succede, dai un'occhiata. E... dal vaso inizia a guardare sempre. Poi si fa la chiama agli occhi e ritorna là. Metto giù la mia borsa, la metto lì di fianco a lui, prendo il martello, mi avvicino all'albero. E poi con due mani provo a tirargli un colpo all'albero. Rollami 10. Fai breccia sulla corteccia e il danno sembra normale, cioè a quello che ti aspettavi, cioè una martellata, è un martello molto resistente, quindi spacca un bel chunk di corteccia, cioè la spacca nel senso di la crepa. Ok, lo guardo, cioè non ha niente, non si illumina, non c'ha effetti magici attorno quando colpisce. Non sembra aver fatto niente del genere. Ok. Allora mi allontano, vado da Irumaru e poi prendo il martello e lo lancio contro l'albero. Mi rolli un altro di 10. Prendi precisamente il punto dove l'avevi colpito prima. Il martello cade per terra e per ora sembra tutto normale. Se non che vedi che la corteccia si rigenera. Si ripara. Una martellata, okay. Tienti una martellata. Okay, dai, Monte San Vega, non ci hai insegnato una cosa. Guardo il martello, guardo la corteccia. Oh. Curioso. Prendo una pietra che c'è per terra e tiro la martellata contro la pietra. La prima martellata che gli tiri spacca la pietra. Ok. Ritiro un'altra martellata ai frammenti che sono lì vicino. Come hai previsto correttamente, i frammenti della pietra si ricompongono. Ok. Quindi è a numero di dispari o è sì il secondo che gli tiro? Un colpo rompe, un colpo ripara. E prendo di nuovo un altro sasso tipo e penso... Prendo due sassi, ok, che sono vicini, e tipo li colpisco pensando di fonderli insieme, di ripararli. Non riesci a prendere, ne prendi uno effettivamente col colpo, l'altro lo scacci via senza danneggiarlo, e il sasso che hai preso si cracca, però non si fondono. Ok, prendo il piccone, okay. Lo configo contro l'albero, quindi faccio una crepa nell'albero. Sì. E poi colpisco la crepa con il col martello, con l'intento di ripararlo. La crepa si ripara e il piccone viene lanciato con molta forza nella tua direzione, tanto che ti sfiora. E... No, l'avrei tolto, cioè la crepa, cioè volevo... Okay. L'idea era di tipo di fare... Presente quando si fa con le incisioni per estrarre la gomma dagli alberi? Tipo col piccone... cioè, si incide la corteccia in modo che esce fuori la gomma, o la resina, quella roba lì. Volevo fare così col piccone e togliere il piccone e poi colpirle col martello. No, semplicemente si rigenera, cioè ripara la corteccia. Ok. Noti che la corteccia non è proprio uguale a prima, cioè sembra un po' più legnosa, mentre prima era viva. Ok. Guardo Irumaru, ultima prova. Metto la mano sull'albero, colpisco col martello il mignolo. Forte o piano? Forte per rompere le ossa. E riesci a rompere le ossa correttamente. Prendi un danno. Okay. Sì. Fa male, ma considerando che inibile costantemente il dolore per i funghi... stringe i denti e poi si ricolpisce di nuovo il mignolo con col martello. Un altro danno. Ok. ho avuto la conferma che non funziona. Fa estremamente tutti male. Però fortunatamente c'è il kit, medikit in chiesa. Hai scoperto che gli oggetti, non le persone che vengono sì. danneggiati, vengono riparati dal martello. Peccato. Quindi ripara le donne. Bravissimo. Wow, grande Cronos. Guarda Alice in faccia e dilli questa cosa. Dille questa cosa. Metto il martello, lo ritiro, cioè me lo metto tipo dove tengo di solito il piccone, metto il piccone nello zaino, col mignolino così, fa ancora male, prendo Irumaru, ok, possiamo tornare. Cioè, però c'avrò il sangue che esce dal coso, lo faccio colare sul secchio. E poi ritorno alla chiesa per usare il medikit. È in corso la messa? Lo fai silenziosamente o... Quanto dura la messa? Un'ora? Eh sì. Allora non ho voglia in questo momento di entrare dentro... Non ho voglia di avere a che fare con le persone. Quindi vado verso il mercato. Vedo se trovo gli altri. Ok, sì. Ci sono così poche persone che è facile incontrare gli altri. E vi riunite tutti dopo aver fatto le compere. Se volete interagire fra di voi, faccio la scena finale. Cioè, parlate tra di voi e poi... Uno di voi sa che cos'è sto robo. Il braccialetto. Mi intanto ti porge la giara. No, grazie. Guarda Irumaru, questa è tua. Poi ti mettiamo qui dentro. Comunque vorrei dire fuori game che le stelle marine hanno gli occhi. Wow. Le stelle marine, nello specifico, le stelle marine hanno un occhio per tentacolo. Minchia, è inquietante questa cosa. Non risolvono, però riescono a vedere effettivamente. Ok, ho fatto le mie prove. A quanto pare questo martello riesce a riparare i danni degli oggetti, non delle persone. Oh mio Dio, ok. Beh dai, se ci si rompe qualcosa basta sistemarlo. Sì. E lieto di sapere che lui l'avrebbe fatto nella sua identica maniera, questo esperimento. Se ci sono... Se ci sono tutti i pezzi, suppongo che si possa riparare. L'albero, io ho provato a colpire l'albero, ho provato a colpire una pietra. L'albero è... in realtà è come se fosse ricresciuto, quindi magari in realtà non serve neanche che ci siano tutti i pezzi dell'oggetto per ripararlo. Ha senso. E il rosario, giusto? Sì, mi sono svegliato male. Cosa? Ci serve un tiro via religione. Prego. Perfetto. Ci sono. No, Rulli Badone non si è addormentato. Cosa c'ho di religione? Più 4? Mi pare più 4. Sì. Dodici. Buono. Non è tanto religione, è il fatto che tu sai leggere. Perfetto. E sul rosario ci sono tante palline. Certo, e ci sarà scritto un nome. Oh no, c'è scritto Promezia sopra. Sono tipo i braccialetti che prendi al mare con le sfere con i nomi. Sta scrivendo in chat, sta scrivendo qualcosa. Se vuoi provare a leggere. Ok. No Gayville. Il villaggio dove non ci sono i gay. Scrivo come gay o gay? C'è scritto in chat, io... Ok, Adone dice, sulle perle c'è scritto No Gayville. Litia con il contrario. Non ci può andare. Litia con... È Liviagon al contrario. È Liviagon. Io che cazzo ne so. Cosa voleva? Cos'era Liviagon? Non era un tizio del mare. Era un dio. Ma una divinità? Era un dio. Sì, del mare era, tipo. Sì. Aspetta. Pianici, quale esattamente? Me lo quello di affogati di prima? Non è quello no, di era no, Orumauru no. Qualcosa. Oh lord. Arriva Rive con divinità nel mare. È nato senza essere venerata esplicitamente. Sì. Sai cosa? Adone dice ad alta voce: Rigel, sai qualcosa di questo dio? Non è un dio della morte. Io. È dio del mare, comunque. Sì, magari era un'altra morte. Adone è lì così. Con i miei fedeli. Oh. Una cosa che a quanto pare adesso posso fare. Non c'era qualcuno che si stava segnando le mie stranezze, Mif? Forse tu? Cosa? Tanto. Il fatto che tu abbia le voci in capo non è tanto strano dei sogni che fai. Grazie, Mif. Sempre gentile. Però sì. A quanto pare è una cosa che posso fare, quindi se troveremo, se magari c'è qualcosa che non sappiamo, magari loro lo conoscono. La voce ti dice, non è una cosa che sai fare, è pregare questa cosa. Beh, sicuramente prima, anche se pregavo, non succedeva, dice sempre Adone, riferito a Rigel. Si vede che prima eri ateo. Oh, bella prospettiva. Interessante. Voi sentite che sta parlando io adesso... solo? Io tra l'altro adesso, io personalmente, Siri, ho stravoglia di prendere e conversare con Rigel, perché sta cosa è incredibile. Se volete conversare ancora, ditemelo, se no... No, no, ok. Non dico, una roba, ma tu è qualcosa che degli avatar oppure una roba tutta tua? Credo sia una cosa tutta mia, perché idealmente quando una persona prega non ha un contatto diretto con la divinità, considerando che io sono sia il mio dio che il mio culto. È una cosa un po' particolare. Magari può farlo anche dietro. Se ci chiede abbastanza, se ci crede abbastanza, magari può farlo pure dietro. Vuoi farlo? Magari credo. Se crediamo, non lo so, se preghiamo in lui, magari riusciamo a comunicare telepaticamente o qualcosa del genere. Io credo che il suo potere potrebbe essere qualcosa di interessante. Crediamo in te, Lieto, e ti dà una pacca. Potresti anche provare a credere in me, nel senso. Tu hai già i tuoi. Esatto. Hai già predicato. Infatti. Puoi provare a farlo. Comunque. Prima che chiudiamo. Sì. Descrivimi come prega Lieto. Scusa, Osso, ma sono curioso di vedere. No, no, vai. La volevo dire soltanto che dopo volevo andare a curarmi il dito. Basta. Ah, sì. Dietro la fa tipo scientifica, cioè tipo cerca di ricordarsi, tipo sì, cioè, la gente faceva così, pregava in quella maniera, magari mi devo tipo mettere una maniera particolare, sistema tipo suonare intorno, è preciso, vabbè. E cioè questa è la sua maniera di pregare. Ho una domanda con gli occhi chiusi. Sì. Quanto nella scala quella dell'immaginazione, no? A che livello è Lieto? Cioè, può congiurare una mela? È un esperto di antica, non può essere scarso, cioè mi rifiuto di credere. Sì, Lieto sa fare un'ottima mela, sarebbe tipo un 6 sul 7 che è quella scalalina, roba del genere. Magnifico. Due cose hai come risultato della tua preghiera. Il primo è una voce di uomo adulto che urla fortissimo, cioè proprio sta urlando come un pazzo. Cosa a caso, cioè non è un urlo non okay. parole. E la seconda è che congiuri la visione di un uomo muscoloso che sta prendendo una scacchiera e la sta spaccando sul tavolo con violenza. E ogni volta che la spacca, la scacchiera si rigenera e la rispacca. E questa cosa è un loop infinito che dura, cioè, dura finché non smetti di pregare. E riconosco questa, o la voce o la persona. Potrebbe essere Arva in una condizione che non hai mai visto prima. Ok. E faccio partecipi anche loro di questa cosa. Beh, la vediamo perché... sicuramente. No, è della sua testa. Era mia. Avevo capito congiurare letteralmente. C'è Arva che sembra incazzato. Stava smisciando una scacchiera. Che genere di scacchiera? Aveva 64 quadretti, metà bianchi e metà neri. Non c'erano pezzi sopra visibili. Erano stati lanciati ovunque, quindi... E stava urlando cose senza senso, cioè non dice niente di sensato. Ok. Stavo urlando un buon matto. Non sapete. È successo, quindi? L'unico altro collegamento che ho con la scacchiera è un personaggio che ho visto tempo addietro. Il signor Brook. Lui. Una delle tante persone con cui ho avuto a che fare. Vero. Dici che giochi a scacchi con Arva e Arva, il dio del tempo che può prevedere il futuro, abbia perso una vita mortale. Non lo so. Avevo imparato che le divinità antiche in tempi moderni sembrano essere molto più scause di quanto non lo erano prima. Quindi... anche a giocare a scacchi. Scusa. Vabbè, per i loro tempi lo scacchi è probabilmente un gioco relativamente recente. Effettivamente. Non mi interrompo per finire la sessione, perché questa cosa mi stava divertendo un botto, ma è tardi. Sentite dietro di voi degli urli. A metà tra la lingua del posto e il linguaggio comune, quindi diciamo semidialettale, capite quello che dicono? E c'è un uomo vestito di nero, grande e grosso, che ha appena lanciato per terra un altro uomo molto più scarno, con vestiti variopinti, colorati, coloratissimi. E l'uomo grosso dall'alto gli dice: vampiro di merda, mi devi dare i miei cazzo di soldi. E quell'altro è tutto sulla difensiva, che dice: non ho soldi, non ho soldi. Volete interagire in qualunque modo con questa cosa? Se sì, ditemi come. Sappiamo dell'esistenza di vampiri, è un insulto generico. Okay. Mi fate un roll solo Mif e Lia. Ok. A me sembra uno che sta chiedendo il pizzo più che altro. Sì, infatti, anche secondo me. 3 Lieto che sugli slur e sugli insulti è di casa. Sa che vampiro è un termine dispregiativo per indicare i nativi. Ok. Lui viene dalla Nadiria, probabilmente. Il tipo a terra, indico il tipo. Lo della Nadiria qua. Non riescono mai dalla loro terra. Infatti. Abbronzato ma bianco. Vediamoci. Capelli. Chi dei due non ho capito. Quello a terra, quello che si sta difendendo. Quello della Nadiria. E hai capelli scuri. E dei vestiti molto colorati. Ma i Nadiri non erano coperti. Dobbiamo aiutarlo? Direi di sì, è lo stronzo, ma Mif cerca di guardare un attimo, si avvicina curiosa. Magari c'è una folla, no? E quindi lei fa. Lieto, sai se è della corona nera, tipo... Cioè, ovviamente ci sono di mezzo loro per queste cose. Non ha anelli, non ha simboli... Esatto, ok. Vabbè, quindi conosco tipo 3 di faccia, cioè non è che c'ho tipo il... Non so, magari... Il manuale. Visto uno, visto tutti. Vabbè, comunque lui non avrà un anello, ma ce l'abbiamo noi. Vero. Ce l'hai tu, nello specifico, Nibel, se non mi ricordo male. Ce l'ho io, se vuoi usarlo tu te lo lascio. Va bene, cioè, lo metto. A meno che non c'è qualcuno più... Se qualcuno vuole parlare, può... Adone alza la mano, come per dire, passami l'anello. Se no, posso provare intimidirlo. Adone non abbiamo molto altro. Vai tu, Nibel. Sì, almeno così se ti pigli un pugno in faccia, non soffri come noi altri. Vuoi provare a intimidirlo o a parlare? Non ho capito. Vabbè, mi metto l'anello al polso. Anzi, lo tengo in mano, lo faccio girare nelle dita. E mi avvicino da dietro al tizio che è grosso e dico: mi metto la mano sulla spalla. Quanto è grosso rispetto a me? Meno di te, però è 1,90 m e ben piazzato. Okay. Metto la mano sulla spalla. Qualcosa non va? Si gira, guarda quello per terra, gli sputa, dice: ah, hai chiamato degli altri amici? E ti gira una testata a tradimento. Ok. This is war. Battere la sessione finisce qua e la prossima iniziamo col fatto. Sputo a terra, stringo l'anello in mano, gli tiro un cazzotto con l'anello. Tiratevi che inizia con un pugno di Nibel. Ah, sì, va.